tua gloria splende su di me. Mi ristora l'anima e mi riempie il cuore, il tuo volto brilla su di me. Mi trasforma l'anima e mi rinnova il cuore, sì. Versa la tua unzione su di noi, scenda la tua gloria, sì. Sorga la tua luce su di noi, scenda la tua gloria. Sorga la tua luce su di noi.